Sono Makram Max Gassis, vescovo delle diocesi di El Obeid Sudan. Questo è un appello al vostro senso umanitario di fratellanza per dare una risposta d'amore e di pace all'odio, alla guerra e al genocidio della mia gente. Un ospedale sui Monti Nuba. Realizzate la loro speranza. Contribuisci a questa iniziativa solidale tramite versamento su conto corrente postale 136888460, intestato a Sorriso per il Sudan Onlus. Conto corrente postale 136888460, intestato a Sorriso per il Sudan Onlus. Visita il sito www.sorrisoperilsudan.it.